Ed eccoci tornati. Abbiamo con noi Giulia ai comandi, per fortuna, perché io da solo non mi ricordavo assolutamente come si fa a comandare questa astronave dei Radio ZAM. E poi accanto a me c'è Marina. Fai un saluto, Marina. Ciao. Ok, allora, la prima domanda, partiamo un po' da lontano, perché mi pare interessante anche ricostruire un po' qual era il clima politico che si respirava in quel periodo. Quindi guardare le cose un po' con un occhio più globale, no? Quindi la prima domanda che ti farei, Marina, è diciamo, qual era la situazione politica a fine degli anni 90? Detto così è un po' molto generale, quindi vado un po' più nel dettaglio. In particolare, quali erano i rapporti tra la situazione che si viveva tra i paesi al nord, che venivano detti del nord del mondo, quelli del sud del mondo, o all'epoca addirittura si parlava di paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo, terzo mondo, insomma si davano tutti questi epiteti. E dall'altra parte invece c'era il blocco del G8, di cui poi parleremo appunto, che era rappresentato dai paesi ad economia avanzata, quelli chiamati sviluppati, no? Il periodo degli anni 90 viene subito dopo quello degli anni 80, in cui, come più o meno sappiamo, famosa la frase della Thatcher di quel periodo, in cui dice che non c'è alternativa al liberismo, che in quel periodo diventa neoliberismo fondendosi un po' con la politica statalista, e quindi abbiamo questi due mostri che si mettono insieme e creano il super mostro dello Stato insieme al neoliberismo. E quello che si diffonde nel mondo è proprio quella che noi oggi chiamiamo politica capitalista. Partita la stampante, nel mentre la sentite a fianco a me, ma questo è il bello della diretta. E quindi niente, Marina, ti chiedevo un attimo di capire di spiegare come il movimento si rapportava a questo neoliberismo imperante che si sta sviluppando in quegli anni. Allora, il movimento si trovava di fronte appunto a un cambiamento, direi anche notevole, partendo appunto dalla politica della Thatcher, la Lady di Ferro. Si introduceva appunto l'era del nuovo mercantilismo. In realtà lo Stato diciamo che più che perdeva di importanza, nel senso che garantiva agli attori economici, all'economia avanzata, più che altro lo Stato esisteva non più come Stato di diritto, ma esisteva più nella sua forma repressiva. Okay. Cioè, come tutela degli interessi dell'impero occidentale. Quindi il cosiddetto monopolio della violenza degli stati diventa prioritario in quel periodo, cioè in quel periodo che è un periodo che dura ancora adesso. Quindi lo Stato non è più uno Stato di diritto, benché contestabile, criticabile, come nel qualsiasi forma di capitalismo, diciamo, che è contestabile e criticabile, ma nella sua forma neoliberista elimina tutto quello che poteva essere lo Stato sociale, e quindi qualsiasi erogazione di servizi ai soggetti più deboli, anche nel nord del mondo e non solo nel sud del mondo, che già chiaramente viveva delle colossali ingiustizie, le vive ancora ora. Quindi c'è questo cambiamento notevole. Diciamo che l'economia intanto prende la sua forma, viene finanziarizzata. La finanziarizzazione dell'economia segna un cambiamento epocale, e quindi ci si trova di fronte a una situazione sociale in cui si evidenzia l'erosione dei diritti, intanto, sia per quanto riguarda i lavoratori, che è un po' un po' tutte le, come dire, le classi sociali, le classi in generale, sociali subalterne, insomma. Certo. E contestualmente, diciamo, l'aspetto militare degli stati comincia a crescere, cioè diciamo che è prioritario l'investimento sulla sicurezza, quindi si cominciano a configurare le prime questioni e magari i primi tentativi di realizzare leggi improntate sulla sicurezza, e per assurdo magari vengono anche voluti dai cittadini, perché chiaramente il cambiamento comporta anche il fatto che ci sia un'erosione dei diritti, e la mancanza di servizi genera all'interno di tutti gli strati sociali generano un senso di insicurezza. Perciò i cittadini stessi, anziché chiedere una maggiore rivendicare, sicurezza, rivendicare maggiore maggiore rivendicare una migliore condizione di vita, rivendicano in realtà maggiore sicurezza. Sicurezza che viene richiesta, che viene colta dai vari governi occidentali e che si concretizza con le erogazioni di leggi. Le erogazioni di leggi fondamentalmente oppressive. Il movimento si inserisce in questo contesto, cioè scopre queste nuove politiche del neoliberismo e effettivamente diciamo che questa forma di neoliberismo fa uscire un po' dal riflusso delle lotte degli anni 70 il movimento, cioè che voglio dire, sempre presente nei territori ma con forme diverse. Diciamo che magari in un certo periodo era un po' assopito, no? Nel periodo in cui la pacificazione sociale ha dato i suoi esiti, magari era un po' appiattito su altri contenuti. Con l'irruzione del neoliberismo si dà un aspetto un po' più conflittuale. Comincia a rilevare le varie contraddizioni che man mano si evidenziano. È anche vero che eravamo già usciti dal fordismo, per cui eravamo già abituati a delle forme di precarietà sociale anche in termini di lavoro, e c'era già stata in qualche modo la frantumazione della classe lavoratrice, e quindi era anche un periodo in cui era abbastanza difficile interloquire con la base sociale. Nonostante ciò si tentava di raggiungere il più possibile, appunto, gli strati più fragili della popolazione, che potevano essere che erano fondamentalmente le classi sociali, quel proletariato che poi addirittura perde anche la sua connotazione e diventa, come si può dire, perde la connotazione di classe, certo. E quindi si trova a che fare con come dire, un'identità poco definita. E in più subentrano anche gli immigrati, che si mettono proprio che vengono posizionati sulla base della scala sociale. E quindi in questo modo, cioè, il movimento allora cerca di interloquire con questi soggetti, i nuovi soggetti subalterni. E in particolare, appunto, le modalità, come parlavamo prima di questa intervista, ci raccontava un attimo come le modalità con cui il movimento si interrelaziona con queste disuguaglianze sociali tendenzialmente si possono dividere in due strade. C'è chi portava una solidarietà verso esperienze estere di lotta e chi invece cercava di praticare la conflittualità, di portare la conflittualità sul proprio territorio, no? Sì, è proprio un po' sì, è così. Sostanzialmente, allora, intanto ci troviamo in quel periodo in cui in alcuni paesi scoppiano delle lotte che poi, ad esempio, la lotta più emblematica, la situazione più emblematica è sicuramente la lotta nel Chiapas. E parecchie, una parte di movimento, tutto il movimento si interesserà a questo fenomeno, è ovvio, però diciamo che una buona parte del movimento esprimerà la sua conflittualità attraverso la solidarietà anche attiva verso queste forme di lotta, di lotta in questi paesi lontani. Sì. Allora, intanto nulla da eccepire sul fatto che si possa solidarizzare con avvenimenti di questo tipo, che peraltro durano anche i nostri giorni. Però per un'altra parte invece di movimento ciò sarà per un'altra parte di movimento questa pratica sarà un po' dispersiva, nel senso che si individuano anche localmente, cioè soprattutto nel nord del mondo, per dirlo così, le origini dell'oppressione e delle ingiustizie sociali. E quindi si rende fondamentale invece azioni conflittuali proprio laddove l'imperialismo ha sede. Certo. E qui inizia probabilmente, non solo per questa ragione, comunque inizia una separazione all'interno di quello che viene definito il movimento antagonista. Perché si rende proprio una necessità, ma anche il sostegno proprio delle lotte e dei percorsi rivoluzionari che attuano in certe parti del mondo, si rende necessario un sostegno nel nord del mondo, voglio dire, fondamentale un cambiamento per alcuni settori del movimento, è fondamentale un cambiamento nei paesi industrializzati, nei paesi imperialisti, altrimenti gli esperimenti che avvengono appunto più o meno isolatamente in certi settori del sud del mondo sono limitati, nel senso non possono avanzare, non possono crescere, non possono esprimersi nella loro pienezza. Certo, come se rimanessero delle bolle che continuano, esatto, a lottare contro un sistema che però se non viene attaccato fin, esatto, dall'origine in qualche modo rimane quello. Okay. Esattamente, cioè, quindi c'è un po' questa separazione di intenti fondamentalmente, no? Occuparsi della guerra sociale che avviene altrove, anche lontano, legittima ovviamente, e non occuparsi nel proprio mondo, nel mondo in cui si vive, che porta anch'esso tutte le contraddizioni economiche, sociali, ambientali, di genere, eccetera. E di genere . una guerra sociale all'interno del mondo occidentale. Questa cosa qui è stata determinante anche secondo me per creare degli schieramenti, dei posizionamenti diversi. Cioè, in sintesi, c'è chi vuole lottare nel proprio paese in termini rivoluzionari, e c'è chi invece decide di portare la solidarietà, appunto, come ripeto, anche attiva, però dall'altra parte della terra, e sostenere da lontano queste rivoluzioni, come se il sostegno a queste forme di rivoluzioni possa estendersi anche in Occidente o altrove. In realtà la cosa non è automatica, perché questo lo abbiamo visto, cioè il Chiapas non si è esteso in altri paesi, è rimasto lì, meno male, in qualche maniera sopravvive, però in realtà è un fenomeno circoscritto. Quindi diciamo che era un po' questa la caratteristica del movimento allora, in termini di appunto di conflitto nord-sud del mondo, no? Cioè, diciamo che era un po' quella roba qua. Ok, io su questo ti farei soltanto un'altra domanda, poi mettiamo una canzone, e, per capire un po' più nella pratica poi quali erano invece i metodi di conflitto che venivano portati sui nostri territori. Cioè, tu hai accennato al tema dell'immigrazione, che veniva sicuramente attraversato dai movimenti antagonisti, poi non so se c'era qualcos'altro. Sì, adesso, cioè, sto pensando, perché infatti sono passati talmente tanti anni, vabbè, in questo caso più di 20. E sì, vabbè, intanto il tema ambientale diciamo che dominava un po' tutti, intanto non solo la sinistra antagonista, ma anche la sinistra istituzionale, ovviamente con presupposti diversi. Il tema ambientale, che altrettutto è tornato d'attualità oggi anche. È sempre stato d'attualità. In realtà è anche un motivo per cui i paesi del sud del mondo vivono in condizioni disastrose. Quindi il tema ambientale era prioritario, l'immigrazione anche, perché è proprio per quella ragione lì, proprio per il dislivello economico dei vari paesi collocati in certe aree geografiche, e nonché già all'inizio di una condizione ambientale devastante, tale per cui, non so, tipo l'avanzamento, la desertificazione di alcune terre, insomma alcune zone in cui la condizione ambientale non permette più a intere popolazioni di vivere. È chiaro che molti di coloro che vivono in queste terre si riversano nel nord del mondo, mi sembra normale, no? E però qua si crea il problema grosso dell'immigrazione, che poi vabbè, per molti cittadini rappresenta un'invasione, per altri invece rappresenta semplicemente l'arrivo di persone che cercano la soluzione alla miseria. E quindi diventerà uno degli argomenti principali anche delle mobilitazioni di Geova, ma delle mobilitazioni in generale, perché gli immigrati arrivano e non hanno nulla, hanno bisogno di lavoro, hanno bisogno di case e si devono accontentare, quindi tendenzialmente vivono in condizioni non dissimili da quelle che hanno lasciato nei loro paesi, nei nostri quartieri. Dopodiché vivono condizioni di sfruttamento sul lavoro inimmaginabili, creando anche conflitto orizzontale nelle classi subalterne, perché vengono anche individuati come coloro che peggiorano le condizioni di vita e di lavoro degli autoctoni. Certo, è anche in qualche modo annunciato al tema della lotta per la casa che, come mi raccontavi prima, è una delle pratiche che veniva messa in atto proprio dal movimento sul territorio, diciamo, da quella parte del movimento che si basava più che sulla solidarietà verso le lotte estere sul praticare conflitto proprio sul territorio stesso, quindi tutta la parte di lotta per la casa, occupazioni abitative, eccetera, eccetera. Esattamente, quindi sì, si impone anche un po'. Allora sì, la lotta per la casa diventa prioritaria a quel punto. In qualche modo riuscire a costruire dei percorsi comuni che poi non sono con gli immigrati, ma con tutta quella classe che ha perso sia il lavoro che il diritto ad abitare. E non ha più un tetto sulla testa, o quantomeno aumentano le persone che sono sotto sfratto. Come dire, lo stato sociale non esiste più, per cui c'è anche molta più difficoltà a ottenere una casa pubblica. Molti anche nelle case popolari subiscono degli sfratti da parte delle aziende pubbliche. E quindi ci si trova con tra sfollati, sfrattati, immigrati senza tetto di fronte a una problematica su cui lavorare e il tentativo di interfacciarsi con questi soggetti, con queste nuove soggettività. Certo. Va bene. Allora, questa era soltanto la prima delle domande. Magari mettiamo un pezzo musicale e poi andiamo avanti. Vai, Giulia, DJ. Si desapareció en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. 25 años y vos existías sin existir todavía. Esas épocas, malos eran esos aires. O hace 25 años vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. O hace 25 años existía sin existir todavía. Eccoci qua. Allora, passiamo, Marina, alla seconda domanda. Diciamo che siamo partiti un po' da lontano, ma adesso andiamo più nello specifico della tua situazione individuale dal punto di vista sempre politico. Quindi quello che ti chiederei è, come abbiamo chiesto ad altri nostri ospiti e ospite, esiste? Boh. Altri nostri ospiti, qual è il percorso individuale e collettivo che ti ha portato a Genova nel 2001? Ossia, di che area politica facevi parte? E poi magari anche ti chiederò quali erano i rapporti con le altre aree del movimento che si affacciavano al grande evento di Genova. Allora, io facevo parte, fondamentalmente la mia area era quella anarchica, facevo parte di quell'arcipelago e i miei rapporti erano anche con alcuni gruppi dell'autonomia, insomma. Il percorso che ci ha portati a Genova è stato un po', come puoi dire, ne abbiamo parlato tanto, se ne è discusso tantissimo perché ovviamente l'evento era importante, per cui effettivamente ne abbiamo discusso tantissimo. In realtà, nonostante rilevavo l'importanza di quell'evento, non lo reputavo come l'unica data assoluta nel mio percorso di lotta. Era un passaggio. Il fatto che poi le si desse, così tanta importanza un po', lì ai miei occhi, ma anche agli occhi di tante persone, gli faceva perdere anche un po' di valore, perché non si riusciva a capire perché una giornata, benché ci fossero i capi del mondo che decidevano delle nostre sorti, delle sorti della terra, e quindi ovviamente rappresentavano tutta la negatività e la distruzione, l'oppressione al mondo, però ero assolutamente convinta, come me penso anche tante altre persone, che questa cosa andava combattuta giorno per giorno. Cioè, non si poteva in realtà far convergere tutte le energie su questa giornata. E cominciava a delinearsi anche l'aspetto spettacolare. Allora, è chiaro che un evento di quel tipo aveva tutti i riflettori mediatici su di sé, e anche una bella fetta di movimento e di partiti della sinistra coglievano l'occasione per emergere, per prendersi un po' la loro fetta di luce, di riflettori mediatici. non era più esattamente il voler portare il conflitto in piazza, ma cominciava a concretizzarsi quello che poi diventerà abbastanza una pratica consueta, cioè la rappresentazione del conflitto in piazza, cosa aborrita da molti. Cioè era un po' questo che nella parte di movimento, chiamiamola per intenderci, diamogli una definizione di questo tipo, la parte di movimento non allineata all'altra che diventava rappresentativa dello spettacolo conflittuale. Per questo motivo io stessa, ma molte persone erano abbastanza dubbiose sul recarsi a Genova. Un altro dei motivi che ci rendeva e chi mi rendeva dubbiosa è che si sapeva benissimo che sarebbe stata una trappola. Una trappola nel senso che le numerose forze dell'ordine impiegate, lo Stato aveva predisposto, aveva predisposto una città in assetto di guerra, e quindi eravamo tutti convinti che durante quei giorni ci sarebbero stati degli episodi gravi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Cioè non è che eravamo convinti, lo Stato attraverso i media lo annunciavano quotidianamente. Quindi era tutto un susseguirsi di notizie in quel senso. Cioè se andrete a Genova e non vi atterrete alle regole imposte dalla nuova organizzazione e dal nuovo uso dello spazio pubblico, ci saranno solo legnate, delle grandi legnate, se tutto va bene. Se va male si useranno le armi, e infatti le armi sono state usate. Quindi era una delle perplessità, era anche questa, oltre che l'egemonia di una parte del movimento su tutto il resto del movimento. E quindi in concertazione, io dico, con le politiche dello Stato a protezione dei grandi del capitalismo, stabilivano delle regole ferree sull'uso dello spazio urbano. O segui noi, o se no sono cazzi. Ma, sì, infatti su questo poi ti farò una domanda in specifico perché mi sembra interessante. Mi hai voluto fare una domanda, mi sento un po' strano. Un po' piemontese. E, invece, ascoltando un'intervista che abbiamo fatto negli scorsi giorni ad Andrea Staid, lui accennava al fatto che voi comunque facciate parte della stessa area politica, e io mi ero chiesto come mai invece tu poi non fossi andata al corteo che c'è stato il pomeriggio del 20, che era quello a San Pier d'Arena, degli anarchici contro il G8. Credo che quello della mia area, dici. Esatto, cioè si capisce anche un po' meglio come era il contesto di quelle giornate, così. Sì, allora. È un po' a parte il fatto che, insomma, non è tutto legato ad agire politico. In realtà quelle giornate si costruivano strada facendo, nel senso che ci alzavamo al mattino, scendavamo nelle aree permesse, perché poi, appunto, come sappiamo benissimo, la zona rossa era inaccessibile, e da lì si decideva il che fare. Cioè noi non seguendo appunto il grosso corteo del movimento dei movimenti pubblicizzato nei secoli, non avevamo un punto di riferimento particolare. Soprattutto il 20, perché il 19 c'è questo corteo pacifico colorato e quant'altro che va bene, Il 20 è il 20 giorno, mattina. Il 20 sì. mattina è il giorno fatidico. Allora, io dormivo in uno dei campeggi, ci alziamo e si parte, si scende, si prende l'autobus normale e si arriva nella cosiddetta zona gialla. Insomma, in realtà non è che non sono voluta andare al corteo degli anarchici e della CUB che si teneva oltretutto anche fuori dalla zona gialla, in periferia sostanzialmente. Avrei potuto farlo perché era programmato per il pomeriggio e noi ci siamo mossi già al mattino, non dico prestissimo, però verso al mattino, insomma, alle 9, che ne so, alle 8, insomma, non è che si dormisse tanto bene nei campeggi, per cui probabilmente eravamo in piedi già a ore improponibili, no? E quindi niente, siamo scesi in città. Non siamo andati al mare a fare il bagno, eravamo lì per delle mobilitazioni e quindi banalmente siamo scesi in città. Siamo arrivati nella cosiddetta zona gialla. E quindi se non sono andata magari al corteo degli anarchici semplicemente perché la cosa si è sviluppata in un altro modo. Ottimo, perfetto. Questo secondo me chiarisce anche molto il come si vivevano quelle giornate lì, come era difficile anche un po' muoversi all'interno di quella città. Infatti, esatto. A questo proposito ti farei proprio questa domanda. Ti vorrei un po' chiedere, tu arrivando da, non mi ricordo se sei partita da Milano, mi sembra. Sì, sono partita da Milano. Arrivando da Milano sei arrivata a Genova e che cosa hai visto di fronte? Cioè, come era strutturata la città, anche, non so, dal punto di vista proprio dell'urbanistica, la zona rossa, le cancellate, i tombini saldati, i container che poi sono apparsi di notte del 19, cioè... Com'era fatta la città, diciamo? Cosa hai visto davanti a te? La zona rossa proprio non l'abbiamo vista, nel senso che... nel senso che in realtà, tanto al di là di quello che proponevano alcuni di assaltarla simbolicamente, per me era anche un po' una perdita di tempo, nel senso ormai lo sapevi che era così ed era perfettamente inutile. Sì, poi se fosse capitato di raggiungerlo, però poteva essere quasi un caso, no? Non era un indirizzo politico. E la città era assolutamente militarizzata e peraltro vuota, nel senso che non sapendo come funzionava nella zona rossa, perché non potevamo accedervi e quindi non sapevamo chi c'era, chi non c'era o quant'altro, nella zona dove noi eravamo, nelle zone dove noi eravamo confinate, sembrava abbastanza vuota, abbastanza spenta. Vabbè, naturalmente i negozi erano quasi tutti pressoché chiusi, pochi erano aperti, la gente aveva una paura tremenda perché li avevano intimoriti i giorni, le settimane precedenti, perché comunque avevano trasferito tutto questo organico della polizia e dell'esercito a Genova, e per cui anche sentendo i racconti delle persone, le poche persone che incontravamo e che però peraltro non erano ostili a noi, almeno quelle che parlavano con noi ovviamente non erano ostili a noi, e ci raccontavano che anche in periferia molta gente si è spaventata e è andata via perché vedeva lunghe colonne di mezzi militari che attraversavano la città, e quindi sembrava un po' uno stato di guerra. Ma non solo, pare, almeno queste informazioni, racconti oltretutto di mia compagna di sventura a Genova, che molte delle quali tra l'altro abitavano nella zona rossa perché abitavano nei vicoli, è stata una cosa terrificante. Allora, volevano ripulire i vicoli da eventuali sovversivi che si annidavano, cioè tipo uno era, magari la teoria era che uno era partito dalla un black bloc fosse partito dalla Svezia un mese prima e si fosse rintanato in una casa dei vicoli, questa era la loro teoria, e quindi entravano e spesso e volentieri perquisivano. alcune persone mi dissero che erano state fermate, portate in questura, cioè entravano in certe case, facevano le perquisizioni e si trovavano immigrati, e sono molti nei vicoli a Genova, senza i documenti validi, venivano trattenute, portate fermate, portate in questura e nonché vabbè, si trovavano con la polizia in casa, cioè non è tanto bello, non è stato piacevole, diciamo, non è stato piacevole. Quindi diciamo che hanno preparato bene il terreno, hanno preparato bene il terreno. La zona era un po' così, la zona ti relegava all'invisibilità. L'invisibilità che hanno gli immigrati adesso nelle nostre città, l'invisibilità che hanno i lavoratori delle logistiche, l'invisibilità che hanno le colfe, le domestiche che andiamo a prendere nel sud del mondo per farci pulire la casa e per farci curare i nostri vecchietti. Insomma, ti anticipavano a livello territoriale. Ti relegavano in aree per renderti invisibile. In realtà anche nella zona gialla, se fossimo stati in queste piazze tematiche tutto il giorno, eravamo anche tanti, a parte che forse non ci stavamo neanche tutti. Comunque, a fare. Ma perché? Ma cosa significava? Ma non c'era in giro neanche un cane. Cioè non c'era nessuno. La gente era scappata, la gente non si affacciava. La zona centrale ormai era recintata. Il porto dove gira gente era inaccessibile. Dove il mare, il lungomare era inaccessibile. Cioè il lungomare intendo quello centrale, intendo quello, certo, dove passa la gente. E quindi secondo me la logica era quella di rendere invisibili coloro che portavano il conflitto. Cioè quindi collocarli in un territorio dove nessuno li avrebbe mai visti e nessuno li avrebbe mai sentiti. Cioè è chiaro che ci sono i giornali e quant'altro, però cioè, tu se vai in piazza è perché in un certo qual modo ti vuoi confrontare con chi le strade le vive, con gli abitanti di un posto, con il mondo intero. Certo, ma addirittura poi questo intento di invisibilizzare, nuovo termine appena nato, chi voleva portare il conflitto in piazza oppure appunto far emergere queste contraddizioni di cui parlavamo prima, secondo me si vede anche nel modo in cui vengono regolamentati i cortei o appunto le varie piazze tematiche, cioè è come se fosse appunto una concessione da parte dello Stato di uno spazio che però è molto limitato, esiguo, tu stai lì, stai buono, grazie, ciao. Sì, era proprio così, quello che ci si paventava davanti agli occhi era proprio quello. Cioè, allora, concretizziamo un po' il ricordo. Tu arrivavi all'inizio della zona gialla, cioè, beh, io a un certo punto sono salita su questo pullman, mi ha portato lì, sono scesa. Mi sembra che mi sono trovata proprio vicinissima a questa piazza Paolo da Noli. Tra l'altro io in Genova anche non la conoscevo benissimo, a parte appunto i vicoli, perché se arrivi da Piazza Principe stai in centro, non è che te ne vai in Piazza Paolo da Noli a fare un giro per Genova, non capiterà mai, no? A meno che hai un motivo perché ci abita qualcuno. E mi sono trovata in sta piazza sconosciuta, ma anche il quartiere era assolutamente sconosciuto per me. Per cui anche i ricordi sono un po' così, perché non vaghi, però mi sono trovata in una zona completamente vuota e riempita dai manifestanti, unicamente dalle persone che venivano da fuori. E quindi, cioè, insomma, era un po' anche... non è che avessimo grosse aspettative, ma quelle poche che avevi erano disattese, no? Anche perché lo Stato e coloro che si erano prodigati a realizzare questa bella iniziativa e a organizzarla avevano ridotto ai minimi termini gli spazi in cui potevamo, in realtà potevamo stare. Quello che è successo è proprio perché ci siamo ammutinati, insubordinati a questa logica. Cioè, non abbiamo accettato di essere relegati dentro un perimetro che equivaleva a una piazza e per di più piccola e priva di è priva di passaggio, è priva di interlocutori. Ma a chi cazzo dovevamo dare i volantini? Non c'è nessuno, figa. Era solo noi. Cioè, ma era una presa per il culo, netta. E solo che noi eravamo andati a Genova per dire quello che ho accennato poc'anzi. Cioè, noi volevamo, come se andavamo lì, era per dire qualcosa. Non per fare un viaggio a Genova gratis o per prendere le botte. Ecco, un'altra cosa, non siamo andati con l'intento di prendere le botte, mi sembra umano. Cioè, io non credo che nessuno parta con la volontà di farsi picchiare. Volevamo portare il conflitto nella piazza, quello che nel corso degli ultimi anni del 90, degli ultimi anni del 90, insomma, un po' avevamo costruito, magari anche malavente, però avevamo tentato di costruirlo. Tutto veramente molto chiaro. E no, infatti, proprio a proposito di questo, di come poi si è comprato quella parte di manifestanti di cui facevi parte tu, che è quello che poi è stato chiamato blocco nero, e anche su questo ci sarebbe da dire molto, su questa etichettatura grigio, una zona grigia, bianco erano le tute bianche, quindi rimaneva il nero d'altra parte, esatto, e, in contrapposizione, esatto. No, peraltro etichettatura che come emergeva da quello che ci raccontavamo prima, fa anche sembrare questo blocco nero come un gruppo omogeneo di persone che si muove tutto insieme, mentre era qualcosa, tu mi raccontavi, di molto più diffuso in tutta la città. E quindi ti volevo proprio chiedere qual era la strategia che, per chiamarla così, che questo blocco nero portava in piazza in quel contesto lì, in quello di Genova. Ma allora, questo blocco nero, fantomatico blocco nero, tutto così compatto, che si muoveva come, cioè come un esercito, non so come hanno definito in vari modi. In realtà erano compagni che probabilmente pensavano di voler muoversi fuori dalle piazze tematiche e fuori dall'ambito territoriale circoscritto. E non muoversi in corteo perché ovviamente non ci sarebbero stati neanche i presupposti per formare un corteo in quel contesto. Perché in realtà non c'era nessuna predeterminazione di quello che poi è accaduto. In realtà non ci si conosceva. In realtà gli appartenenti al cosiddetto blocco nero potevano essere chiunque, poteva esserci la persona più politicizzata e la persona meno politicizzata, ma anche quello assolutamente non politicizzato, perché è successo anche questo. Allora, e questo è provato dal fatto che tra i miei coimputati ci sono persone che non c'entravano proprio nulla con noi, nel senso con noi arrestati e con un background politico, tra gli arrestati con un background politico, chi più chi meno. Tra gli arrestati ci sono state delle persone che due persone di Palermo che probabilmente non avevano fatto mai parte di nessun movimento politico. Due ragazzi che si sono trovati lì e sono entrati a far parte di questi, cioè si sono mossi in questo territorio, nella zona gialla, con altre componenti, probabilmente non conoscendo nessuno, sono capitati lì, non si sa come, non si sa per cosa, però sono capitati e si sono uniti alla rivolta. Credo anche altre persone che non avessero mai fatto politica, o comunque magari ognuno di noi ha un'idea politica, perché poi la vita è politica, che non appartenevano a nessun movimento antagonista e si sono trovati invischiati o meno nella rivolta. Cioè, io credo che l'ambiente era assolutamente variegato, poteva esserci chiunque. Quando si cercò di far passare la teoria dell'infiltrato per giustificare le cariche al blocco bianco, tutte bianche, blocco qua, blocco là, la teoria dell'infiltrato era assurda, nel senso, nessuno mi ha detto che non ci potesse essere un infiltrato, ma sicuramente l'infiltrato. Allora, gli infiltrati intanto c'erano anche il giorno prima nel corteo pacifico, non so, nel corteo quello del 19. No, perché poi anche se definizioni pacifico, non pacifico, secondo me non hanno assolutamente senso. Allora, nel corteo del 19, guarda, io mi ricordo che dei compagni avevano trovato proprio degli infiltrati, li avevano forse anche allontanato, gli avevano detto, adesso un po' era grosso, comunque cioè, ovviamente. Ma secondo voi una situazione come quella di Genova non c'erano gli infiltrati? Ma cioè, o siamo ammattiti tutti, o comunque era chiaro che gli infiltrati dovevano esserci. Ma gli infiltrati erano ovunque. Come magari li abbiamo anche adesso, ma che ne sappiamo di sti infiltrati poi? Se sono infiltrati, se li scorgiamo, buon per noi, altrimenti te li tieni, che cazzo devi fare? Cioè, questa è una teoria assurda proprio. Tuttavia, c'era la gente, c'erano i compagni sicuramente, c'erano ragazzi magari giovani che erano la loro esperienza, magari c'erano anche quelli che volevano fare il riot, perché esiste, no, quello che dico io è che sulla terra esistono le persone con mille teste diverse e che fanno mille cose diverse, e quindi può essere che il ragazzino, ma anche, magari anche genovese, che sapeva che c'era una manifestazione, è arrivato lì e si è unito ai riot. Cioè, non possiamo definire questo gruppo. Quello che sappiamo è che c'è stata la guerriglia urbana e che si è fatta una rivolta. Mi si chiedeva, ma c'erano gli ultra? Ma gli ultra fanno parte della nostra società, Ve lo dico, sono tutte le domeniche allo stadio, non sono marziani. Gli ultra possono essere politicizzati o meno, possono essere di destra, possono essere di sinistra, esistono gli ultras. Allora, come esistono allo stadio, potevano esistere anche a Genova, potevano esserci anche a Genova, e che problema c'è? E qual è il problema? No, ma che mi si dica qual è il problema poi, perché io non lo scorgo. Certo, va bene. Allora, su questo tema si può parlare tantissimo. Mi sembra che hai detto già molto. E l'unica altra questione che ti vorrei chiedere, perché e dopo mandiamo una canzone magari. Perché in realtà è un tema che io ho sentito emergere molto durante questi 20 anni. Quando si dice che sì, va bene la violenza della polizia, brutti cattivi, però in realtà la violenza della polizia è stata giustificata dal fatto che come dire, è stata una reazione a quello che ha fatto questo cattivissimo blocco nero, e quindi come dire, viene in qualche modo utilizzata la modalità di stare in piazza di queste persone, che poi come hai detto tu erano estremamente diverse tra di loro, per giustificare quello che viene letta come reazione della polizia. Ma era una reazione, o come tu accennavi prima, era qualcosa di premeditato e utile? Ma secondo me sicuramente, cioè io non credo che lo stesso giorno si sono messi i capi della polizia e dei carabinieri, si sono messi lì a decidere cosa fare. Io credo che voglio dire, ma quantomeno mi auguro che un esercito un po' premediti, perché altrimenti voglio dire, vabbè, teniamoci per noi lo spontaneismo. Però, no, nel senso, io non vorrei l'esercito, ovviamente non voglio lo Stato, non voglio l'esercito, ma siccome che vivo in su questa terra esiste lo Stato, esiste l'esercito. No, sicuramente che volevano far brutto, lo si sapeva, ripeto, lo si sapeva da mesi. Sul fatto che nella gestione della piazza e dell'ordine pubblico ci siano stati degli errori, adesso io non riesco a capire perché bisogna assolutamente demonizzare qualcuno su degli errori. Non lo so se sono stati errori quelli della polizia e dei carabinieri, lo sanno loro, alcuni dei loro capi sostengono che ci sono stati degli errori nell'organizzazione di queste cariche, e posso anche crederlo, nel senso che probabilmente non aveva nessun senso caricare le tute bianche in quel posto. Probabilmente esistono le barzellette dei carabinieri, purtroppo in questo caso i loro errori sono drammatici, no? Cioè sono cretini, e però possono fare anche dei danni e fare male. Ora, come siano andate esattamente le cose lo sanno solo loro, in realtà. Il fatto che abbiano caricato le tute bianche, però vorrei anche sottolineare un aspetto. Cioè, di fatto, gli sparuti black bloc, oppure questo blocco, che poi non era un blocco ma erano gruppi di persone che si muovevano, e magari poi, essendo quello il territorio, si dividevano e si ricongiungevano, però non è che funzionavano come, no? come corteo compatto, lungo, forte, che doveva invadere la zona rossa. Devo anche, appunto, volevo sottolineare che comunque era l'organizzazione, quella delle tute bianche, con il suo rappresentante, che per mesi dichiarava di voler assaltare e far guerra ai grandi della terra, assaltare la zona rossa e fare la guerra ai presenti, ai politici presenti in centro, nella zona rossa. Allora, le dichiarazioni comunque spesso sortiscono un effetto. Cioè, io me lo ricordo bene il signore che sotto i riflettori di tutti i media mainstream, che sosteneva che loro erano una forza e sarebbero riusciti a raggiungere la zona rossa attaccarla, anche solo simbolicamente, però comunque lo affermava pubblicamente. Ora, cioè, le forze dell'ordine comunque le ascoltavano queste cose, cioè loro si erano anche un po' posti come un potere forte. E quindi ci sono una serie, adesso poi non lo so, la storia speriamo ci dia delle altre informazioni, però ci sono anche le possibilità che anche le forze dell'ordine reagivano a tutto quello che si trovavano davanti, no? In tal caso, insomma, sappiamo benissimo che le loro basi non peccano di intelligenza, per cui magari, non lo so, però poi io vorrei chiudere qua questo discorso, e però al tempo stesso vorrei anche dire che ritengo assolutamente impropria e ingiusta la demonizzazione di altre persone, che nella fattispecie erano quelle configurate nel blocco nero, che poi blocco nero per me non era neanche. Ok, va bene. Mettiamo una canzone e poi andiamo avanti con altre domande. Vai, Giulia. Thank you. period when I... Santa María del Guanay. Ed eccoci qua, siamo tornati e tornate. Marina mi diceva durante la canzone che aveva una postilla da aggiungere a quanto appena detto. Sì, allora rispetto alla domanda di prima vorrei aggiungere quest'altra cosa. In pratica il cosiddetto blocco nero, senza ovviamente essere programmato, comunque evitava il più possibile lo scontro corpo a corpo con le forze dell'ordine, mentre invece dall'altra parte nel tempo erano proprio le tute bianche che rivendicavano una modalità di piazza che richiedeva anche lo scontro corpo a corpo. Cioè, quindi la differenza sta anche in questo, cioè, e non, nello, non lo rivendicava lo stesso giorno, ma faceva parte delle dichiarazioni che erano venute nei mesi precedenti, insieme alla dichiarazione di guerra, cioè di voler assaltare la zona rossa. C'era anche l'ipotesi non remota di scontrarsi con le forze dell'ordine. Perfetto. Allora, abbiamo parlato un po' di quello che che ha portato a Genova, quindi prima al Genova, abbiamo parlato adesso del quello che è accaduto durante le giornate di Genova, adesso passiamo al dopo. E in particolare la prima domanda che ti farei, Marina, riguarda alle relazioni, o meglio, a che cosa è successo tra le varie parti del movimento che in quei giorni si presentava in piazza dopo il G8 di Genova. Cioè, appunto, parla tu, vediamo un po'. E dopo il G8, oddio, subito dopo il G8 in realtà siamo riusciti ancora a proseguire nei nostri percorsi politici e a portare avanti in un certo qual modo le cose che avevamo iniziato anche prima, con un po' più di difficoltà perché erano subentrati, appunto, era subentrata la psicosi collettiva, che voglio dire, è comprensibile dopo quanto era successo, perché nessuno vuole negare la violenza che c'è stata nelle strade di Genova, e soprattutto eravamo costernati per la morte di Carlo Giuliani, ma tutti, assolutamente tutti. Il problema è stato quando l'altra parte del movimento, quella contrapposta alla nostra, ha cominciato a puntare il dito, a ritenere responsabili di quanto successo, persino della morte di Carlo Giuliani, le azioni del cosiddetto blocco nero. E il fatto che il cosiddetto blocco nero non fosse mai stato caricato brutalmente era indicativo della presenza di intanto di infiltrati, dopodiché di persone assolutamente irresponsabili che con la loro irresponsabilità avevano causato le cariche delle polizie e dei carabinieri sul blocco bianco, chiamavano blocco bianco che è più bello. E quindi la cosa nei primi mesi proprio è stato abbastanza delirante. Oddio, ma non è che ci si incontrasse per strada, perché eravamo già separati da prima, non eravamo neanche separati in casa, eravamo proprio separati definitivamente. Però ci arrivava attraverso ancora le notizie dei media mainstream, cioè la stigmatizzazione di coloro che avevano partecipato alla guerriglia urbana, che in realtà oltretutto non è che proprio non fossero seguiti dalle forze dell'ordine, è che le forze dell'ordine, facendo un passo indietro, avevano molta difficoltà a intervenire su gruppi che non si muovevano in corteo, perché ovviamente vedendo dei gruppi sparuti che poi si ricollegano magari in certi luoghi, ma che poi ancora si dividono, visto che loro comunque hanno una modalità di intervento, perché per loro è il loro lavoro e sono addestrati a un certo tipo di intervento e di carica, probabilmente non è che avessero difficoltà, ma non volessero proprio intervenire in quel modo, perché significava magari intervenire in un'area dove c'era un gruppo e poi potevano arrivarne anche degli altri. Cioè era un po' una strategia diversa di stare in piazza, che probabilmente aveva preso di sorpresa anche polizia, carabinieri e quant'altro. Questa non vuole essere una giustificazione, è magari è più che altro una deduzione osservando le cose che, cioè, insomma, il modo in cui alcuni, il cosiddetto porco mero si muoveva nelle strade, no? Insomma. E perché? Perché è un po' quella pratica del colpisce e fuggi, no? E quindi è vero, cioè, avrebbero dovuto scomporsi anche loro. Cioè, il concetto che se ci sono dei gruppi che si ricompongono e si scompongono, per seguirli forse anche la polizia doveva mettere in conto di scomporsi e magari strategicamente decideva di non farlo. Peraltro però ci sono stati delle cariche, non è che proprio non ci sono state delle cariche, e comunque soggetti che si univano al cosiddetto blocco nero provenivano anche dallo smembramento del grosso corteo, perché in realtà le cariche avevano smembrato il grosso corteo, essendo l'area circoscritta è sempre la stessa, potevano, come dire, mischiarsi le varie soggettività presenti a Genova. E quindi, scusami, fai un passo indietro. Sì, il passo indietro era appunto cosa succede dopo Genova, tra le diverse aree del movimento. Perfetto. Tu stavi accennando proprio al fatto che viene costruito un nemico pubblico, che è questo del... Ecco, volevo fare questa parentesi perché era importante, e perché poi, per spiegare poi quello che è successo dopo, no? Allora, intanto non si è più analizzata la situazione, non ci si è più parlati, ci si è solo accusati a vicenda, ma perché poi anche ovviamente chi non aveva partecipato insomma, si sentiva vicino quantomeno a coloro che avevano praticato la guerriglia urbana, si vedevano come dire, attaccati e stigmatizzati, e quindi il dovere di rispondere all'attacco e allo stigma. Per cui lì c'è stato proprio, non che prima non ci si parlava, però dopo c'è stata una forma di guerra attraverso la pratica della calunnia e della diffamazione, tant'è che quando poi fummo arrestati venimmo anche un po', appunto, non dico abbandonati perché non è vero, però permaneva la stigmatizzazione del soggetto. In realtà questa cosa qui ci ha fatto, ha diviso nettamente, ancora più di prima, il movimento. Ma più che altro, secondo me, come si può dire, perché qua diventa un aspetto un po' più difficile da spiegare, quello che voglio dire io è che i soggetti che sono subentrati dopo, le persone che si sono aggregate successivamente a Genova e che non avevano vissuto Genova e la fine degli anni Ottanta, si trovavano dentro a un meccanismo non generato da loro, ma che portava avanti, come si può dire, la rottura e lo scontro che si era generato dopo Genova. Che in quello scontro non c'era nulla di razionale, perché fondamentalmente era condotto dalla psicosi che si era generata, strumentalizzata anche dai vari leader per declinare la loro responsabilità su altre questioni. Quindi questa strumentalizzazione di Genova si è, come dire, propagata all'interno del movimento e negli anni successivi, ed è diventata un'eredità scomoda per coloro che loro malgrado e non conoscendo i fatti antecedenti, magari cominciavano a frequentare dei luoghi che appartenevano alle derivazioni di coloro che avevano parteggiato per il blocco nero e coloro che invece stavano dalla parte disobbedienti. Quindi si è portata avanti anche un'eredità scomoda che affliggeva tutte le persone, tutti i nuovi, anche i giovani, no? Che si aggregavano successivamente a quel grande evento. Sì, certo, questa cosa è molto vera. E niente, allora un'altra domanda che ti farei sempre, adesso abbiamo fatto, stiamo parlando del dopo il G8, questo era un po' quello che è successo in generale, e invece poi vorrei chiederti a te in particolare cosa è successo e quindi appunto la parte del processo, devastazione, saccheggio, eccetera eccetera, se hai voglia di raccontarci. Sì, vai proprio a ruota libera, sì, ti sì, lascio sì, no, quello che vuoi dici. Allora, nulla, finito Genova, eravamo impegnate negli scazzi, ma al tempo stesso nel voler ricostruire o portare avanti il percorso, i percorsi politici nella nostra quotidianità, quello di cui parlavo prima. E in realtà ci riuscivamo anche, c'erano ancora le occupazioni delle case, c'erano anche gli sgomberi, c'erano altre occupazioni come risposta agli sgomberi, c'era, insomma, si cercava di seguire tutti gli argomenti che seguivamo prima, no? E di renderli e anzi la volontà di concretizzare è ancora maggiore per un certo verso, non è che ci aveva svuotati, ci aveva anche caricati. L'impedimento era proprio rappresentato dal delirio che si era creato all'interno, dal clima di sospetto, dal clima di sospetto e dalla pratica della diffamazione che oramai era, come si può dire, era diffusa tra tutti, cioè ognuno sputtanava l'altro, era un clima di proprio di peggiorava di giorno in giorno il clima tra le persone, le relazioni. Questo era assolutamente pesante e dannoso, perché poi comprometteva il morale e quindi comprometteva tutto il percorso che stavi facendo. Cioè, comprometteva la militanza delle persone, no? E però quell'anno e mezzo lì, prima che arrivassero i nostri arresti, abbiamo continuato normalmente la nostra militanza. In quell'anno lì abbiamo anche occupato la nostra casa di Via Romante, abbiamo fatto anche altre occupazioni, abbiamo fatto anche un sacco di iniziative, e non su Genova, perché poi volevamo uscire da questa, da questo look genovese, volevamo fare altro, anzi dal nostro punto di vista era importante, era assolutamente importante che la vita continuasse, che la lotta continuasse, che Genova fosse solo non un ricordo, un evento importante, ma il tentativo è che ce la lasciassimo alle spalle, volevamo proseguire nonostante i vari impedimenti, no? Le diffamazioni, le calunnie, queste robe qua. Tra l'altro una pratica che poi permane i giorni noti, la calunnia e diffamazione, benché sia una pratica politica, è pesante, può fare del vero male alle persone, no? Cioè non è la dialettica che può anche confluire in una rottura, in uno scontro, è un'altra cosa, no? È una forma di violenza, però fatta all'interno, ed era diventata abbastanza drammatica la situazione. Beh, conclusione, dopo un anno e mezzo, dopo un anno e qualche mese, era esattamente il 2 di dicembre, parte il Blitz. Il Blitz contro i cosiddetti Black Bloc. A noi ci arrestano i Raimondi, ci arrestano me e il Vince, arrivano prestissimo tra l'altro, cioè onore improponibile. Io lavoravo qua a Gratosoglio, tra l'altro, oltretutto era un lavoro molto impegnativo, nel senso che spesso e volentieri tornavo tardi alla sera, perché già allora la precarietà, la mancanza di organico e di personale ti portava a volte a fare turni di lavoro prolungati e quindi di straordinari. tra l'altro non pagati. Ci tengo a sottolineare la mia appartenenza alla classe lavoratrice, purtroppo. Non sono nata ricca, vabbè. Quindi sono tornata tardissimo, stanchissima. Io pensavo, cioè probabilmente ero andata a letto anche abbastanza presto, e a un certo punto sento bussare di notte fuori, pensavo a uno sgombero. No, inizialmente pensavo che qualcuno della casa avesse dimenticato le chiavi, che fossero tipo le 2 di notte, no? Io avevo già dove... E quindi al momento mi incazzo anche, dico, chi è quel coglione che ha lasciato che io voglio dormire, devo alzarmi alle 6 domani mattina, pipim e pipam. E invece sento polizia, oh signor, stanno già a sgomberare, arrivano a sgomberarci, però poi vedo, dico, ma che cazzo di ora arrivano a sgomberare, presto, no? Vabbè, morale, polizia, tempo di alzarsi un attimo, sono già alla porta, sentiamo dall'esterno che sono tanti, bussano proprio tipo, aprite, se no buttiamo giù la porta, eccetera. Non abbiamo neanche fatto il tempo a tirarci insieme, si sono svegliati un po' tutti, perché noi vivevamo in 5-6, adesso non mi ricordo il numero, no, 6 o 6, vabbè, che è. Insomma, non abbiamo neanche fatto il tempo, qualcuno di noi teneva la porta per non farli entrare, non abbiamo neanche fatto in tempo, che hanno sfondato, sono entrati tutti incappucciati, tantissimi, mamma mia, io sono rimasta basita, dico, ma che cazzo? È il momento, mai più avrei pensato... Ma io proprio in quel momento, l'ultimo dei miei pensieri era il G8 di Genova, ve lo giuro, dico, ma siccome che sugli anarchici spesso e volentieri costruivano dei reati associativi, 270 270 bis, insomma, attraverso frequentazioni di anarchici riuscivano a imbastire delle indagini, io pensavo fosse una roba di quelle lì, no? E invece no, invece poi quando entrano e perquisiscono ci mostrano il mandato e vedo che era per i fatti del G8 di Genova e mi tranquillizzo, dico, ah beh, se per il G8 chi se ne frega, no? È una manifestazione, vabbè. Però poi ci dicono, ah no, ma guardi, viene da me uno della Digos di Genova e mi dice, ascolti signora, un ispettore, è meglio che, signora, ero già una signora, no, allora ti chiamano signora, poi ti danno i bastonati, però è meglio che si porti qualcosa in una borsa, perché mi sa che perché la tratteniamo. Ah, rimango lì, c'era il Vinci, dico, te, ma sai che dobbiamo portare qualcosa perché poi ci trattengono, no? E lui dice, ma va, sì, ci porteranno in questura adesso, ma poi sono obbligati a lasciarci andare. Dico, vabbè, vediamo, insomma, io mi sono portata le cose comunque. E invece no, invece siamo saliti sulla macchina, ci hanno portato infatti bene fratelli e ci hanno mostrato appunto i capi d'accusa, devastazione e saccheggio, però al momento non avevamo ben idea di cosa si trattasse. L'unica cosa che avevo visto è che non c'era l'associazione, poi il resto non è che avessi il codice penale in testa, per cui sapevo in cosa consistesse il reato di devastazione e saccheggio. Me lo disse dopo, il giorno dopo, Mirko in carcere, perché e mi dice, ma lo sai cos'è? Dico, no, fa, dagli 8 ai 15 anni, fischio, ho detto, non avrei mai immaginato una roba così, no? E però lì apprendo che il Blitz è stato fatto in tutta Italia, che ci sono compagni veneti, che ci sono compagni emiliani, che ci sono compagni siciliani, insomma, che è stato realizzato in diverse parti dell'Italia, che in totale eravamo 25 indagati. Tra l'altro vorrei anche dire che è una cosa che poi non ho mai detto, però secondo me è significativa, del fatto che comunque volessero anche colpire un po' appunto le soggettività che agivano in un certo modo, e non solo a Genova. Nella quotidianità, e un po' mi ricollego sempre a quello che raccontavo prima, no? Del voler concretizzare, far crescere la conflittualità sui nostri territori. E perquisirono mia madre, per cugino a mia madre, perché allora mia sorella, che non era residente da mia madre ma ci stava parecchio perché aveva il bambino piccolo, non era più piccolo, però insomma mia sorella lavorava, era separata, stava spesso a dormire dai miei, rientrò nel Blitz, cioè quindi andarono a perquisire mia madre a casa di mia madre, di mio padre, dove viveva anche mia sorella in quel periodo, dove viveva anche mio nipote, e spaventarono a morte mia madre, perché intanto era sempre un'ora improponibile, cioè non voglio dire che se fossero arrivati alle 7 sarebbe cambiato qualcosa, però sentirsi bussare, suonare il campanello alle 4 del mattino, cioè uno si inquieta anche un po', ma soprattutto perché portarono via mia sorella che non aveva mai fatto un secondo di politica in vita sua. Semplicemente loro sostenevano che il mio telefono, che peraltro di cui non hanno mai rilevato nulla, cioè non ci sono intercettazioni compromettenti relative al G8, perché io quel telefono usavo solo per parlare con mia madre e mia sorella, infatti me l'ha dato mia sorella perché serviva solo tra di noi, e con questo pretesto, per cui sapevano benissimo che non avevo usato e non c'era nessun elemento che poteva ricondurre alle giornate di Genova, nonostante ciò si sono portati mia sorella e l'hanno interrogata per un'ora e mezza. Tra l'altro, poverina, lei lavorava in una fabbrica lì vicino a casa. Dopo quell'episodio gli è venuto in mente che lei vedeva delle persone strane che gli giravano intorno in un paese di montagna a novembre, che non c'è nessuno, non ci sono neanche villeggianti, insomma, ma infatti io vedevo fuori dalla fabbrica che c'erano queste persone strane, no? Però vestite tipo anche da operaio dell'Enel, così. E infatti quando l'hanno portata in questura gli hanno detto che la stavano pidinando, quindi è allucinante, sembrava quasi che stesse, non so, l'apocalisse, la seconda, cioè, e quindi ci ho tenuto a raccontare questo episodio perché non l'avevo mai detto e mi sembra giusto, perché con loro sono stati un po' cattivi, no? Cioè, voglio dire, forse l'affettività che prescinde dal pensiero politico non so, l'hanno ritenuta una complicità inutile. Vabbè, comunque torniamo a noi. Quindi l'arresto, ci comunicano che il reato di cui siamo accusati è devastazione e craccheggio, che ha questa cosa qua. Però sai, all'inizio non vai a pensare che poi insomma diventeranno anni di galera, no? Ti fai la tua galera preventiva, poi pian piano ti lasciano, ti fanno fare un po' di domiciliare, fai parecchi anni di obblighi, perché poi abbiamo fatto fino, mi sembra, al 2005, dal 2002 al 2005 ci hanno, vabbè, tra galera e obblighi, ne siamo usciti poi nel 2005, ecco, liberi siamo stati nel 2005, abbiamo fatto tutti quegli anni di obblighi, di misure, intendo dire, e niente, l'esterno al di là delle manifestazioni di solidarietà, la differenziazione si fa ancora più sostanziale, nel senso che iniziano comunque i procedimenti. E quindi ci si trova oltretutto anche in tribunale insieme. In tribunale ci troviamo tutti noi, nessuno di noi si conosce, perché infatti il loro tentativo di accusarci di associazione a delinquere è fallito proprio per questo, perché poi hanno dovuto ammettere che gli indagati tra di loro non si conoscevano. E come cazzo facevamo a conoscerci? Cioè, robe da matti, robe da chiodi. Comunque fallisce il tentativo di accusarci di associazione a delinquere, che poi non so se era peggio, era bello. Invece in realtà hanno scovato questo reato di devastazione e saccheggio, che secondo le loro aspettative era quello che si prestava meglio. E secondo me nasce anche un po' così la cosa, perché lì di fisso è vero che non hai l'associazione come aggravante, però è anche vero che parti dagli 8 ai 15 anni secchi, e in più non è, voglio dire, facilmente interpretabile, perché non è molto esplicativo, quindi è facilmente interpretabile. E questa cosa qui, poi vabbè, insomma, poi le cose si sono, tuttavia le cose sono peggiorate in tribunale, perché hanno pescato un po' dappertutto, anche tra le tute bianche, perché poi di fatto gli scontri ci sono stati, giusti, sbagliati, non lo so, cioè hanno sbagliato i carabinieri a attaccare prima, loro hanno risposto, e quindi, ma poi c'è stata Piazza Limonda, perché molti dei miei coimputati erano per Piazza Limonda, per gli scontri di Piazza Limonda, dove è morto Carlo Giuliani, per assurdo. E lì le cose poi, insomma, ci siamo trovati ad affrontare questa questione politica all'interno del tribunale. Ed è stato abbastanza deleterio. È stato deleterio perché allora ancora la paura alleggiava ovunque. I rapporti erano contraddistinti appunto dalla calunnia. Non ci si guardava, c'era un clima di sospetto e c'era questa dinamica di costruire all'interno del movimento due rappresentazioni diverse del conflitto, che appunto non è più conflitto, ma diventa la sua rappresentazione. E quindi questa cosa è per questo che tutto diventa deleterio, perché poi si contrappongono due modalità di piazza, no? O di intendere il conflitto, ma in una forma inautentica. Cioè, se in quella giornata, che poi è quella giornata che si riduce a 3-4 ore di scontri o di guerriglia urbana, c'era una autenticità, ma io penso anche con le tute bianche, dietro c'erano sicuramente persone, magari non condivisibili, ma sicuramente che ci credevano, no? Che quella giornata poteva avere un significato. Poi diventa tutto un po' finto, no? Cioè, nei territori sostanzialmente più o meno vanno avanti ancora le lotte, no? Però come la rappresentazione, no? Diventa un po' più inautentica, un po' meno reale, perché ci si deve schierare. Ma non è che ti posizioni ideologicamente e in modo dialettico. Ti posizioni per partito preso. Cioè, secondo me anche la politica viene sempre un po' meno, no? Cioè, si riduce un po' come i diritti, si erode... Si erode il dibattito perché poi diventa una cosa un po' più sterile. Allora io mi posiziono da questa parte o mi posiziono dall'altra parte, ma in una forma poco costruttiva, additandosi a vicenda, perché poi in un certo qual modo è vero, è capitato anche a me, perché un po' diventa una guerra, quindi ti difendi. Perché allora se tu mi punti il dito, io ti punto il dito. Ma il problema di queste pratiche è che si diffondono anche nel tuo ambito e diventano implosive. Perché se passa la strategia della calunnia, questa cosa qui rientra nel nostro bagaglio di relazione. Diventa uno strumento per relazionarsi. Allora, quando le cose non vanno bene, è facile puntare addosso il dito. Cioè, al primo problema, perché poi riducendosi ulteriormente i gruppi, riducendosi ulteriormente i due schieramenti in piccoli altri gruppi, gruppetti, assumono, come dire, una formazione, come dire, asfittica, e quindi che porta all'implosione. Allora, nascono i micromondi, delle micro situazioni autoreferenziali e autorappresentative, anche ben definite se vuoi sulle parole d'ordine, ma che fanno un po' il contorno, cioè diverso a interiorizzarle. Non so se mi spiego, perché è un passaggio un po' difficile. Quindi il clima in cui noi viviamo la repressione è un clima assolutamente sfavorevole e implosivo. Quindi anche dire, ah, ma c'è stata poca solidarietà da una parte o troppo tanta dall'altro, o meno. No, in realtà avevamo raggiunto un tale clima di sospetto che si fatificava. Perché poi quando tu vivi il conflitto orizzontale, quando io non confliggo più con te tutta bianca, perché poi non ci sono, magari si creano delle dinamiche per cui non ci si incontra più neanche in piazza, lo stesso meccanismo rischi di vivertelo nel tuo interno. Cioè, se tu impari a individuare sempre un nemico al tuo fianco, quel nemico ci sarà sempre e può essere anche il tuo vicino di casa. E questo si verifica anche all'interno del movimento, quello più, se vuoi, radicale e rivoluzionario. Certo, come se diventasse uno schema mentale che poi tu applichi. Era un po' uno schema, è diventato un po' uno schema mentale. Certo. E quindi non è che non ci sia stata la solidarietà, è che questa cosa ci ha portato a livelli abbastanza gravi di implosione. Tutto lì, e a guardarci un po' in cagnesco, perché poi la rappresentazione di sé in un ambito politico porta anche a, come dire, a soddisfare dei bisogni personali e individuali per autorappresentarsi in un ambiente che è quello che tu scegli per perché magari ti riconosci politicamente, no? Però insomma era nato un po' in crisi tra la competizione tra compagni, tra insomma, non ci siamo allora abbiamo vissuto tutta la nostra gli anni della repressione in un movimento che piano piano implodeva e guardandoci in cagnesco, insomma, un po' questa cosa qua, secondo me. Non cioè, so se sono stata chiara. Sì, no, assolutamente. Silenzio era per riflettere su quello che stavi dicendo. E, quindi in realtà poi io adesso non mi ricordo bene le date, ma se ho capito bene c'è stato una parte di incarcerazione preventiva, poi nel 2006 penso inizi il processo. Il 2007? No, scusa, il processo è iniziato nel 2005 o 2006 o 2004. No, 2004. Vabbè, comunque inizia in quegli anni lì, va bene. Non sono molto interessata al tribunale, però. Ok, no, e dopo cosa accade negli anni successivi? Ma negli anni successivi poi, ma fondamentalmente, cioè, insomma, si militava, c'era comunque, c'erano le cose da fare, nonostante la difficoltà magari di creare dei coordinamenti in cui i rapporti facilitavano, cioè le persone in cui le persone che ne facevano parte erano facilitate da rapporti buoni, insomma si cercava di stare comunque in piazza nonostante i problemi, si cercava di stare nelle situazioni nonostante i problemi, magari si guardava male, se magari arrivavano i disobbedienti prendevi le distanze, se magari arrivava l'altro compagno che nonostante era magari magari anarchico come te, o era, aveva più o meno le tue stesse tensioni, però chissà perché, per qualche motivo strano e assurdo non ci si guardava più, si litigava. Allora si avevano inventato anche il compagnometro, nel senso che tutti, ognuno era più bravo dell'altro, ognuno era più radicale dell'altro, ognuno faceva più cose dell'altro, ognuno la diceva più dura e pura, ognuno è l'individuo. È l'individuo solo, è l'individuo che si deve autorepresentare, è l'individuo che qual è. Allora, cos'è? A un certo punto bisogna anche chiedersi se noi vogliamo ancora provare quelle tensioni collettivamente, o se vogliamo trovare un posto dove sentirci ancora un essere umani, che va bene, perché è fondamentale, cioè in questa società è fondamentale anche trovare un luogo dove, in cui si socializza, ci si riconosce. Però nella politica ci deve essere anche un ingrediente in più, secondo me, no? Perché abbiamo un mondo nuovo nei nostri cuori, diceva Durrutti, e non lo so, quindi... Cioè, adesso non dobbiamo essere tutti bravi, amici, fratelli, perché magari, cioè, studiando un minimo la storia dei rivoluzionari, magari sappiamo che in certi frangenti si sparavano anche nelle strade, no? Però magari perché erano momenti diversi e il rapporto era più diretto. Invece noi che siamo così civili ci calunniamo a distanza, con cose neanche dette in faccia, con cose che vieni a sapere nell'altra assemblea, perché oppure trovi uno per strada e comincia a guardarti male e dici: ma che cazzo c'è, ma quello di guardarmi male, dici: ma cosa gli avrò fatto? E non capisci, poi capisci che sei finita o finito in uno schieramento diverso, che sei stato posizionato su un'altra mensola. E questa cosa qui però deriva da quel caos, non solo, perché probabilmente c'erano anche cose che, problemi che ci siamo portati al G8 e che poi dal G8 si sono intensificati e si sono aggravati. Però diciamo che le dinamiche, che poi sono un po' le dinamiche, sì, un po' la guerra tra i poveri, noi l'abbiamo fatta un po' al nostro interno, quella che chiamano la guerra tra i poveri, che poi è lo scontro orizzontale anziché il conflitto verticale, certo. No? Cioè, finisce il conflitto verticale, inizia quella roba lì, su quel segmento, no? Con tutti i vicini che ci prendiamo a forchettate, che bello, siamo tutti felici, con... e la coscienza... E la consapevolezza che noi tanto critichiamo agli schiavi che non hanno, che si fanno sfruttare, che li vorremmo tutti vedere liberi e ribelli. E beh, però anche noi un po' ci dobbiamo porre delle domande. A voglia. Va bene. Marina, se vuoi raccontare qualcosa invece sulla tua esperienza personale, oppure nel senso che poi tu chiaramente sei andata in carcere. Sì. Ah già. sì, è vero. Sì, sono stata in carcere, però sì. Allora, intanto parlare di carcere non vai a finire nel vittimismo. Nel vittimismo. Nel vittimismo, sì. Ok. Ma non perché non ci sia da parlare di carcere, perché voglio dire, in carcere bisogna parlare del carcere. E allora è un luogo dove tanti subalterne, sì, e subalterne abitano in tratti della loro vita. Certo. E quindi è purtroppo a volte una delle traiettorie che anche noi facciamo politica fuori dal Parlamento, ci tocca incontrare, cioè ci tocca percorrere. Io l'ho un po' considerata così, non che, cioè non sono contenta, per carità, cioè, non è che sono stati anni felici, però ho cercato di vivermi con un minimo di consapevolezza, voglio dire, è capitato, Per questa ragione non ne parlo volentieri, perché né voglio diventare l'eroe, né voglio diventare una vittima. Voglio essere la proletaria che sono sempre stata. Mi piace usare ancora anche questa parola. E una proletaria che fa politica può trovarsi su questa strada qua, che porta in via Filangieri numero 2 a Milano, fai altri posti, non lo so, però cioè è un po' una cosa così. E quindi la volevo un po' sdrammatizzarla con questo via Filangieri numero 2. Va bene, fatto benissimo. Va bene, direi che con queste parole possiamo chiudere questa intervista e mandiamo una canzone che ci ha suggerito Marina stessa, perché le ricorda quei giorni del G8 e ma basta. Perché mi piace anche il tango e perché anche lo diceva la Emma Goldman, che nella nostra rivoluzione si dovrà ballare, se no non sarà una rivoluzione. Non l'ha detta così, la dico io così. Preciso. Va bene, vai Giulia, grazie a tutte e a tutti e niente.